Mira Siepi, vediamo che l'andatura è subito molto molto veloce e vediamo che va a prendere la testa, la testa, la testa, la testa, la testa. Vediamo cadere, vediamo cadere, vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, no, è ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, no, è ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione, disperazione, disperazione, disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Inseguitori, inseguitori. Questa vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Bentornati ai microfoni di Radio Wombat, abbiamo appena lasciato la fuga del gatto, noi siamo 3.000 siepi in ritardo cronico, perché la nostra vita è così, si svolge in cronico ritardo sempre. E oggi avremo una puntata un po' particolare, primo perché sono qui con la Gine ma in versione soprammobile, non si sa se parlerà o no, sarà una sorpresa per tutti voi, o quindi con me un bellissimo soprammobile raffigurante Doraemon e poi di fianco a me un altrettanto bellissimo soprammobile raffigurante la Gine. Ci saluti? Non mi chiamo più Gine, no, sono Malklanders. Oddio, è già così difficile tenere un soprammobile silente vicino. Saluta però, di ciao. Ciao, ciao a tutti. Poi con l'andare della puntata magari, miglioriamo. Oggi facciamo la puntata speciale perché abbiamo poco tempo in realtà e poi perché fuori piove e piove tanto e quindi noi siamo un po' depressi da questa cosa perché essendo dipendenti da produzione di endorfine e come vi abbiamo già raccontato nelle scorse puntate, quando piove tante cose non le possiamo fare, cioè non possiamo correre, dobbiamo fare solo cose indoor e questo ci rattrista alquanto, quindi anche la nostra capacità di produrre contenuti interessanti e va di pari passo. Avremo però alcune rubrichette, anzi sarà tutta una rubrichetta, nel senso che se l'altra volta avevamo propinato una puntata con 34 minuti e sottolineo 34 minuti di solo parlato, un record credo, questa volta invece proveremo a fare una puntata più aneddoto musica, aneddoto musica, aneddoto musica, fino a che ci arregge, cioè a un certo punto finiremo gli aneddoti, finirà la musica e finirà la trasmissione. Allora, apriamo con il primo piccolo aneddoto che potrebbe rientrare questa volta a pieno titolo solo questo, perché poi dopo degeneriamo subito praticamente, nella rubrica risonanze storiche, perché si tratta di un fatto storico e in particolare un fatto che accade in un periodo che stiamo battendo un sacco, che abbiamo battuto anche nelle scorse puntate, che sono le Olimpiadi di Berlino del 1936. Allora, io ho visti anche i recenti accadimenti romani di ieri, di Forza Nuova e tutte le cose brutte che sono accadute a Macchia Rossa e in generale in quel di Roma. Allora, pensavo, come per mantenere, per rimanere sul tema, ma parlando d'altro sostanzialmente, di rivangare un episodio che di per sé è molto interessante e buffo e che è un bello stereotipo di meccanismo, di come funziona quello che viene detto il revisionismo, cioè tutto quel tentare di ripulirsi della destra tutta nostalgica del fascismo e del nazismo, perché parleremo degli Olimpiadi del 36, quindi anche del nazismo. E questo episodio è in realtà molto famoso, anche e soprattutto perché qualche anno fa è uscito un film sulle Olimpiadi del 36 e in particolare su un personaggio che è il protagonista di questo episodio, che è Jesse Owens, che diciamo ricorderete perché è stato in quelle Olimpiadi vinse ben 4 medaglie ed era anche parecchio scuro di pelle e quindi era uno strano, cioè nella macchina propagandistica che il regime nazista in Fieri aveva creato attorno alle Olimpiadi del 36 fu una sorta di smacco mediatico, ma non solo, cioè anche in parte ideologico. Ecco, un episodio che riguarda, diciamo, questa Olimpiadi che è citato sempre da tutti è la mancata stretta di mano da parte di Hitler di a Jesse Owens. In realtà, cioè quando Jesse Owens è andato sul podio, pare che Hitler non gli abbia voluto stringere la mano. La realtà non si sa come sia andata, nel senso che lo stesso Jesse Owens dice: non è vero che non mi ha voluto stringere la mano, ma alla fine a noi sostanzialmente non ce ne frega niente se gli ha stretto la mano o no. È invece molto interessante come questo episodio viene raccontato da una marea una miriade di siti e di personaggi nostalgici di destra che su questo episodio costruiscono una specie di riabilitazione della figura hitleriana, e anzi far vedere: ah, ma lo vedi che poi gli antifascisti e gli antinazisti si inventano le cose, non è vero che Hitler non gli ha voluto dare la mano. Cioè, come se questa cosa qui importasse veramente a qualcuno, nel senso, a noi che ci frega se gli ha dato la mano o no. Cioè, nel senso che è un meccanismo abbastanza buffo del revisionismo, quello di concentrarsi su minimi particolari per mettere in dubbio le cose enormi. Cioè, se uno, diciamo, se la storia e in generale il complotto che c'è per tenerli lontani dalla nostra società, come pensano loro, diciamo, ha mentito addirittura sulla stretta di mano di Hitler e Jesse Owens, costruendo una macchina di propaganda antifascista e antinazista, cioè figurarsi, no, cosa poi fanno con altre cose tipo, non lo so, l'olocausto o, che ne so, l'uccisione dei prigionieri politici o la seconda guerra mondiale o tutte queste cose qui, no, su cui si costruisce il revisionismo di destra. Ed è buffissimo come in questa attitudine revisionista descrivono l'episodio della stretta di mano. Cioè, si va dalla citazione della bibliografia di Owens, dove dice: non è vero che non mi ha voluto dare la mano, è solo che non c'è stata occasione, questo lo dice Owens, ma non ci frega nulla, a invece testimonianza di tale amico italiano di Owens, tale Mattei, io non so bene chi sia in realtà, che dice, si autoproclama amico di Owens, non lo so, perché poi in realtà su internet c'è un sacco di amici di Owens, cioè, se tu guardi sui siti, cioè, aveva un sacco di amici Owens dopo. Lui dice: io l'ho visto com'è andata, e questa è la descrizione di com'è andata secondo lui. Allora Hitler non è che non lo voleva salutare, lui si è avvicinato per salutarlo, poi essendo nazista, perché se l'era inventato lui il nazismo, ha detto: io faccio il saluto nazista. E quindi ha fatto il saluto col braccio teso. Però Owens, che invece non era nazista, ha detto: boh, io non posso fare il saluto nazista, e che faccio? Gli do la mano. Allora Hitler è rimasto un attimo interdetto e ha tirato giù il braccio e ha fatto per dargli la mano. Ma secondo la ricostruzione di Mattei, a questo punto Owens si è ricordato all'improvviso che era un militare, e quindi cosa ha fatto? Ha alzato la mano e ha fatto il saluto militare. Al che Hitler è rimasto per un attimo, capito, in questa tensione, con la mano così, e non si sono salutati in questa scenetta dove Hitler alza il braccio, quell'altro gli dà la mano, Hitler fa per dargli la mano e quello fa il saluto militare. Ed è così che è andata, secondo un sacco di siti dell'arcipelago neofascista, o comunque dell'arcipelago destrorso, o comunque quell'arcipelago che si bea di queste cose che io non capisco, diciamo, quale rilevanza possano avere storicamente, se non come divertisman, come quelli che vi stiamo raccontando noi in questo momento. All'uopo, siccome abbiamo detto che stavolta si parla un po' di meno, già stiamo sbagliando, già non è vero, però all'uopo abbiamo scelto un pezzo di un gruppo, i Chumba Wamba, che riassume un po' le nostre opinioni sulla questione fascismo e nazismo. Il brano si intitola The Day the Nazi Die e parla di quel giorno bello in cui tutti i nazi saranno morti. We're told that after the war the Nazis vanished without a trace. But the battalions of fascists still dream of a master race. The history books they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Was Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies. E rieccoci qua, erano i Chumba Wamba con The Day the Nazi Die. E un bel pezzo, tradizione modello Irlanda, ecco. Il prossimo piccolo aneddoto in realtà già cagliamo di qualità, perché parla con un salto mortale. Saltiamo a 1984 e ha un personaggio alquanto buffo nelle sue velleità artistiche, che però ha in comune con Jesse Owens di aver vinto 4 ori, peraltro nelle stesse specialità, in un'Olimpiade. Nel senso che Owens è stato, diciamo, ha gareggiato e vinto nei 100 metri, nei 200, nel salto in lungo, nella staffetta 4x10, e nel 1984 Carl Lewis vince nelle Olimpiadi di Los Angeles esattamente 4 medaglie nelle stesse specialità. Fantastico. Se non che Carl Lewis poi aveva anche delle velleità artistiche. Ebbene sì. E in particolare ci teneva tantissimo, ma come tanti altri ho scoperto, a essere un cantante, e in particolare un cantante pop, di quel pop che andava un po' nell'80, quindi un pochino elettronico, un pochino pop, un pochino uno schifo proprio era musicalmente, tanto che è citato in un sito di quelli che si usa tanto sull'internet, che fanno le classifiche. Questo fa le classifiche delle 13 cose, e le, diciamo, 13 cose varie, e in questo caso cercavano i 13 pezzi cantati da atleti che fanno più schifo in assoluto, e il pezzo di Carl Lewis, attenzione, era al primo posto, e quindi come non ascoltarlo. Il pezzo si chiama Break It Up ed è un bellissimo pezzo di storia di quei fantastici anni che erano gli anni 80. Thank you. rieccoci dopo questo fantastico pezzo. Avete potuto assaporare e ricalarvi nell'atmosfera dei magnifici anni 80. Era tutto luccicoso e con i neon e terribilmente glaciale. E ora invece andiamo a parlare di un'altra cosa. Siccome abbiamo parlato nella prima puntata di lotta, in realtà abbiamo parlato però di lotta greco-romana, e in particolare di un personaggio molto ganzo che era Selembinder, sempre anche questo storia 36 eccetera, invece adesso esploriamo il lato più tamarro moderno della lotta, e in particolare parliamo di una disciplina che si chiama Brazilian Jiu-Jitsu, che è una specie di judo espanso sostanzialmente, che deriva da un viaggio, diciamo un viaggio d'affari, da una permanenza in Giappone di un brasiliano che si era innamorato delle arti marziali giapponesi. In particolare aveva visto un maestro che insegnava, era un po' un circense, nel senso che era un po' diciamo gli anni, era la fine dell'Ottocento, cioè quando in Giappone le arti marziali erano un esercizio o filosofico o comunque fisico, ma non avevano più una rilevanza diciamo politico-militare come poteva essere al tempo dei samurai. Eravamo ormai nell'Ottocento, c'erano le armi da fuoco e quindi alla fine chi se ne frega della spada e via così. Quindi il jiu-jitsu era un po' praticato un po' modello circense, un po' da esibizione e poi come certo stile di autodifesa. Questo brasiliano, questa famiglia in realtà di brasiliani che viveva lì in Giappone, si era innamorata di questo stile e se l'era fatta insegnare. Poi, complice un dissidio finanziario, erano stati costretti a tornare in Brasile e quindi hanno poi espanso da lì la loro scuola in maniera autonoma, sostanzialmente ricreando uno stile che ha comunque le proprie radici nel judo e in generale nel jiu-jitsu, in quel tipo di tradizione, però in qualche modo lo espande tantissimo, cioè se voi lo guardate è un'altra roba, cioè ci sono cose che nel judo non si possono fare, si ripiglia tutta una tradizione di strangolamenti, soffocamenti, tutta una serie di cose, espandendolo fino allo studio dei micromovimenti. Quindi è una roba super tamarra, ma anche per chi la pratica una specie di partita a scacchi, cioè la lotta diventa proprio una roba di piccolissimi particolari, molta attenzione, eccetera. Se non che però i praticanti di questa roba anche nello stile che hanno è molto poco tradizionale in qualche modo, cioè hanno, che ne so, il costumino da allenamento e da gara, che nel judo è immacolato, cioè o bianco o blu qua nelle gare, però comunque è immacolato. Loro invece lo riempiono di toppe con le tigri e cobra e serpente, cioè hanno un approccio effettivamente un po' più sbarazzino all'arte marziale. E se non che un sacco di gruppi ho scoperto hanno dedicato dei pezzi il Brazilian Jiu-Jitsu, o comunque hanno dedicato o comunque hanno fatto dei video in cui compaiono dei personaggi legati a questo mondo. In particolare un gruppo vi volevo far ascoltare ora, i Sepultura, hanno fatto questo video che si chiama Attitude, nel quale compare la famiglia Gracie, che era appunto questa famiglia da cui è iniziato il Brazilian Jiu-Jitsu e che se lo tramandano di generazione in generazione. Per un sacco di tempo sono stati anche i principali detentori di questo stile, e compaiono appunto in questo video. Da sottolineare che il video, questo qua, era stato studiato e scritto da il figliastro di uno dei Sepultura, non mi ricordo quale, mi sembra Max dei due fratelli, che aveva questo figliastro che aveva studiato e scritto anche il testo, si vede era un appassionato di... Poi in realtà il video è anche una leggera critica sociale, perché non è che ve lo mettiamo a caso, cioè tutto ha un suo perché è ambientato in una gabbia di quelle di si fanno i combattimenti di MMA, E ci sono tutti questi vari strati sociali che vanno dalla famiglia Gracie, che sono combattenti di Brazilian Jiu-Jitsu, ma poi dentro ci arrivano i manager, gli affaristi, e simulano un po' in questa gabbia quello che io mi immagino fosse diciamo, il nostro mondo così come lo viviamo. Cioè questa guerra di affaristi, banchieri, così. E alla fine comunque spesso il tipo del Brazilian Jiu-Jitsu vince, perché comunque sono tamarri e sono un po' eroi del popolo, di Sepultura. Non è vera, quest'ultima cosa non è assolutamente vera, però c'hanno comunque degli spunti di critica sociale che... Ora, se uno proprio non va proprio a proprio a fare le pulci così, ma rimane un po' sul tamarro generico, alla fine stanno apprezzabili, secondo me. E quindi ora ci sentiamo Attitude dei Sepultura. Thank you. fine del pezzo erano i Sepultura, e adesso dopo ancora un piccolissimo excursus nel Brazilian Jiu-Jitsu, la Gine ha deciso che ci parla di un argomento a sorpresa, anzi in realtà lo so, però voglio tenervi sulle spine, quindi non ve lo dico, ve lo annuncia lei dopo, perché così creiamo la suspense, e comunque secondo me è un momento da ascoltare, perché non accadrà spesso che la Gine si pronunci. Quindi tocca ora. No, non tocca ora, tocca dopo. Ora qualcosa. Voglio mettere ancora un pezzo io. Voglio finire il discorso sul Brazilian Jiu-Jitsu. Il Brazilian Jiu-Jitsu, anche qua, in questo video, che voi non vedete, ma noi ce l'abbiamo perché stiamo prendendo i pezzi da YouTube, perché non ci siamo preparati prima, in realtà si vedono sempre dei grossi maschioni che s'ammucchiano sostanzialmente a terra, e uno lo identifica come un'attività super macia e virile. In realtà si potrebbe discuterne, nel senso che comunque un sacco di maschi che s'ammucchiano a terra, che questa cosa sia super virile, secondo me la potremmo mettere in dubbio. Nello specifico anch'io faccio lotta, e personalmente la trovo anche una cosa intima, bella da condividere con un altro uomo, e non si spiega come mai in questo ambiente poi in realtà sia un ambiente in qualche modo anche super omofobo, nel senso che tutti quanti, sembra quasi che per il contrappasso del fatto che ti stai ad avvinghiare a un altro maschio, poi allora devi dire ma sono mia frocio, e quindi rimane questa specie di retrogusto amaro spesso nelle palestre di Brazilian, perché l'ambiente si tinge di quel clima da caserma, cioè brutto, secondo me è brutto. Allora, per sfatare questa cosa, io ho cercato un pezzo molto buffo, secondo me, dove ci sono questi personaggi, e in particolare uno che si chiama Mario Reis, o dillo te Gine, che no, c'è il rispetto. Dai. Questo era un bucco. Secondo me si pronuncia Reis. Va bene. Lei è esperta brasiliana. Sono quattro parole. Beh, però ti ho indotta a parlare, non so se te ne sei accorta, con un trucco. Infatti preferivo i cioccolatini, sinceramente. Avrai il cioccolatino se parli. Comunque, signor Mario, io lo chiamo Reis, perché non sono capace a pronunciare brasiliano, non mi voglio cimentare. E comunque appare in questo video con dei suoi amici di palestra tatuati, di cui uno ha una specie di ukulele, poi c'è una chitarra, poi c'è un altro che fa la beatbox, e poi c'è uno davanti a Bonghi, e lui che rappa. Cioè, nel senso che si fa un pezzo hip hop che si chiama Jiu-Jitsu, misto a samba, e secondo me questa immagine di loro che se la cantano e se la ballano seduto tra amici è bella, è bellina. Poi io non lo so in realtà le opinioni del signor Mario Reis a riguardo, magari è uno stronzo omofobo fascista, io mi auguro di no. Però nell'immaginario, visto che poi c'è anche un altro video dove invece sono proprio loro seduti sul tatami che fanno la versione acustica di questo pezzo con la chitarrina in mano, a me questa cosa mi ha aperto il cuore, ho detto allora vedi che non siete dei duri omaccioni, alla fine anche voi siete persone belle. E quindi volevo provare a farvi sentire questo pezzo per chiudere il nostro excursus su i Brazilian Jiu-Jitsu, poi non ne parleremo più per almeno un mese circa. Um, dois, três, vai! Humildade e gratidão. liberdade acabou com o lutador. Na luta tem a presa ou o predador. A guerra começou, o ritmo é constante. Por isso sempre passa a pegada dominante. Aluno inteligente quer sempre aprender. O pior tá decidindo a nunca entender. Então seja diferente como um campeão. E ande com quem soma os demais, larga de mão. Eu me eternizo em cada som. A emoção tem razão. Da peça e o corpo, prepare pra valer. A força vem da alma e é o que te faz vencer. Gasolina do guerreiro é a motivação. Acordo de manhã e já sei a minha missão. Não sou cantor de rap, mas manda minha mensagem pra galera do jiu-jitsu em forma de homenagem. Um parceiro tu não gosta, mas muito tu treinou. No final da guerra ele muito te ajudou. Agora eu explico pro parceiro e pro amigo a metamorfose humana que o jiu-jitsu fez comigo. Filtro no que penso, faço o que digo. Caminho mais difícil sfumando su questa bellissima samba hip hop che effettivamente dopo un po' diventa una lagna e quindi sfumiamo. Oltretutto voi il video non lo potete neanche vedere, però se ve lo cercate su internet, cercate Mario Reis hip hop com samba, trovate questa fantastica performance con cui gioire nei vostri pomeriggi. E adesso lascerei lo spazio alla Gine, che ha deciso appunto di fare l'intervento, entra a gamba tesa su un tema di nuovo storico di primaria e rilevante importanza per lo sport moderno. Allora, eccoci qua, finalmente parlo e oggi vi racconto, mi aggiggiano, oggi vi racconto dell'esperienza, sì dell'esperienza, non ci siamo proprio, dei ciclisti delinquenti. Allora, ciclisti delinquenti sono così descritti dal nostro caro amico Cesare Lombroso, che è conterraneo dell'altro speaker. E no, io lo conoscevo appena, giuro. per chi non lo conoscesse, è stato un importante criminologo di fine 800, a cavallo tra fine 800 e inizio del 900. E in un trattato chiamato L'uomo delinquente si sofferma anche sulla descrizione del ciclista delinquente. Tant'è che per Lombroso il biciclo era un mezzo che serviva a tentare i più arditi, gli spericolati, e era un mezzo che provocava un'emozione del nuovo, e il fatto stesso di pedalare dava velocità al corpo e permetteva di vivere nuove emozioni. Certo, e il ciclista criminale infatti finiva sotto di produzione di endorfine come noi due. Cioè il meccanismo è te fai questi sforzi prolungati, vai a folla velocità, ti sale le endorfine, ti sale l'adrenalina e poi rimani tossico, capite? Sei criminale per tutta la vita, anzi proprio perché sei tossico, probabilmente in quanto tossico sei anche criminale, sbaglio? No, è assolutamente vero, anche se in certi casi diciamo ne dava indicazione terapeutica, basta piccole dosi. Potevano andare in bicicletta, sì. Io però mentre stavamo parlando qua, mentre Gine parlava, io le misuravo il cranio e secondo me con un cranio così, cioè lei è comunque irrecuperabile. Sì, anche secondo me. E anche secondo Lombroso probabilmente. Il profilo del ciclista delinquente... inoltre insomma si inseriva in una fascia di età tra i 15 e i 25 anni e in qualche modo quindi persone molto giovani, agili e sportive. E nel libro Delitti vecchi e nuovi descrive diversi casi di delinquenti dediti al ciclismo. E ne leggerò un pezzettino, insomma, la descrizione di un profilo, così per dare l'idea di cosa quest'uomo riuscisse a inventarsi. Allora, questo è il profilo di un giovane di 22 anni, il quale aveva i caratteri di un delinquente nato: cranio idrocefalo, occhio strabico, avendo preso un colpo al capo a seguito di una caduta ed essendo dedito ai piaceri più ignobili fin dall'età di 10 anni. Aveva rubato un biciclo nel negozio in cui lavorava come commesso. Poi si dice anche, a parziale giustifica dell'efferato furto, sempre rispetto al ragazzo, bisogna però notare che la madre era isterica e pazza morale, lo zio paterno epilettico e suicida, ed egli ebbe turbe isterico-epilettiche da giovanissimo, il che spiega la doppia personalità, l'altruismo eccessivo da un lato e l'eccessivo egoismo dall'altro. Doppia bilancia che traboccò nel delitto per causa della vanità morbosa acuita evidentemente dalla moda del biciclo. Ecco, in una famiglia così però, cioè, cosa pretendi? E poi anche con un profilo psicoanalitico così, cosa pretendi? Criminali, tutti criminali, voi con le biciclette, schifo fate. Vogliamo sentire un pezzo? Sì, vogliamo sentire un pezzo. Va bene, allora vi facciamo sentire i Massive Attack con Teardrop, perché abbiamo deciso che dopo la samba dovevamo cercare di alzare il livello, se no smettete di ascoltarci, e ci avete anche ragione. Ancora qui, bentornati ai microfoni di Radio Wombat. Stavamo parlando dei ciclisti delinquenti e del profilo descritto dal famoso criminologo Cesare Lombroso. Io volevo dedicare il pezzo che abbiamo appena ascoltato a Pietro, col quale tra l'altro abbiamo visto la tomba dell'Lombroso al cimitero monumentale di Torino. E continuiamo la nostra storia sui ciclisti delinquenti, che in realtà è quasi finita, perché oggi non avrei dovuto parlare. In qualche modo la descrizione fatta da Lombroso influenzava, aveva un effetto sull'opinione pubblica, e per cui veniva fatta l'associazione bici eventi delinquenziali, e di questa tesi se ne avvantaggiarono i socialisti antisportivi, tra cui il buon vecchio Benito Mussolini, che non mancava di disseminare il Giro d'Italia di chiodi per bucare le ruote dei ciclisti. Che appunto. Ah, e questo la dice lunga sul personaggio. Ma in realtà poi magari in altri momenti ne parleremo, ma poi è diventato un amante dello sport, del fisico virile, anche durante sia fascisti che nazisti. Lui stava sempre a petto nudo e si mostrava. Che non era tanto un bell'uomo. No, non lo era affatto. E descriveva anche le proprie attività sportive, quindi probabilmente ha anche cambiato idea, non sappiamo. Comunque lo ricordiamo così. Lo ricordiamo a disseminare il Giro d'Italia di chiodi, questa era la sua vera personalità, ecco. Ecco. Ora invece cambiamo totalmente argomento. Perché? Perché l'ultimo pezzettino di trasmissione torna a essere dedicato alla musica e gli sport. In particolare volevo trattare un argomento, visto che ho iniziato con la tamarritudine e il Brazilian Jiu-Jitsu, ha detto andiamo in crescendo, e avendo anche toccato con il bellissimo pezzo che spero vi ricordate ancora di Carl Lewis, che era un pezzo bellissimamente anni 80, ho detto torniamo ancora più indietro, andiamo ancora più sul tamarro e andiamo a recuperare quella tradizione che va a rivalutare i film di arti marziali degli anni 60 e 70 e tutta quella produzione un po' cinese, un po' americana, un po' internazionale, che vedeva come protagonisti i vari stili di Kung Fu, oppure i vari stili di Karate, o comunque tutto quel tipo di mondo. E in particolare, però io lo volevo fare con un gruppo in realtà che arriva alla fine di tutto questo, in realtà con un paio di gruppi che arrivano alla fine di tutto questo, e che però sintetizzano 30 anni di stronzate sostanzialmente, e in particolare volevo farvi ascoltare i Wu-Tang Clan, perché membri dei Wu-Tang Clan, non mi ricordo quale di preciso, mi sembra, oddio, ora non me lo ricordo, ve lo dico la prossima volta. Comunque tutti i Wu-Tang Clan affondano in questa tradizione. Uno di loro era praticante prima di karate e poi ha avuto proprio un sifu di kung fu, tanto che loro spesso nei testi fanno riferimenti a questo tipo di tradizione, filosofia o comunque a questo tipo di attitudine. E in un video di un pezzo che si intitola Gravel Pit, in particolare verso la fine spuntano dei ninja e c'è un bellissimo combattimento in stile proprio film, arti marziali, Bruce Lee e quella, insomma, quel filone cinematografico di successo di quegli anni. E quindi ora Wu-Tang Clan, Gravel Pit. Drop me on too. Drop us on off. We all going, man. We all go together. We all go get dropped off. I'm going home. From the land of the lost, behold the pale horse, off course. Follow me, Wu-Tang gotta be the best thing since African killer bees, black watch. On your radio, blowing out your watch. From Park Hill, the house of haunted hell. Every time you walk by, your back hit a chill. Les Bill, who want to talk about skill. I spit like a to the grill. Elbow grease and elbow room. Baby, play me, baby, fall down, go boom. Party people gather round, countdown to apocalypse. I'm the kid with the golden arms. Then I'm my don't front, you had it for a minute, but it seemed like a month. Now I'm choking, smoking, hoping I don't croaking from. Hey kid, when the mouth got you open, let's ride. Can't stand that floss too much. Can't stand Bentleys, they cost too much. Kid wanna get up, then kid get touched. Kid wanna stick up, then kid gets. I'm the one that calls you bluff when your boys try to act tough. Remember what old Dirty said, I'll listen. Styles, extremists, forehead beamers run wild as the kid with the gold cup. Stepped out like what? Was popping in yacht, go blasting, Shay Shay, chocolate, saute. Rich Kellamox rock those all day, 1960s, I'm Goldie. That's right, don't hold me. The world's greatest, Las Vegas painters rock. Skin painted on my face, look ageless, perfect combos. Ghost bang out condos, jet from Homo, X, we bong those bankrolls. Then plain clothes, change those bang those, same old, same old. Yeah, y'all. Straight up, this the jump off right here. The gravel pit, word up, represent rockin' boulders. All my rich gangster style killers, y'all know what time it is. Shorty, do your thing, get up on that right now, boo. Do you? That's what I'm talking about. Step to my groove, move like this. When we shoot the gift, of course it's ruthless. Grab the mic with no excuses in a sec. Grab the loot this. Executing, shaking all sets, and I'm breaking all hex. I'm taking all bets. Move on best. Who want the drum next? You won't stink. We got the bigger bank. Bigger and fill your tank. Still the same for real. Ride and crank, slide, do or die. Fry the bank, admire the grades. On fire with a heart of hate. Bit of shark, every part I take. Heavy darts, it's okay. All fakes. Get caught by the drop kicks. You know the thrill. Yes, it's Park Hill. Yo, we hit him with the hot grits. On the go, check the flow, singing Wu don't rock. Stop quick, hold the gossip, stop sweating my pockets. I hear the hot back, back and forth. Check out my grab. Back and forth, back, back all and forth. All this story unraveled. As we go, back, back, back and forth, and forth. Don't go back, back so and great if you can't handle it. As we go, back, back and forth. You don't have to move my back mountain. Forth, just give back, me the strength to climb. As we go, Lord, back sfumiamo perché a questo punto non si capisce più niente del pezzo se non siete davanti, perché ci sono soltanto dei ninja con alcuni sono vestiti con la striscina rossa e altri invece hanno il simbolo dei Wu-Tang sulla schiena e vincono quelli con il simbolo dei Wu-Tang sulla schiena, e questo è il bello di questo video. Insomma, non era proprio un'opera fantastica, però comunque il Wu-Tang Clan e in particolare Robert Diggs, ora Google ci ha aiutato a ricordare quello che io non ricordavo, è un grande appassionato di questo tipo di cinema ed è anche un attore, abbiamo visto, in particolare lo potete vedere in due film molto bellini, uno è Ghost Dog, che vi consigliamo di andare a vedere, ma sicuramente l'avete già visto, se no che ci state ad ascoltare a fare, che noi vogliamo un pubblico selezionato, e poi recita anche in Coffee and Cigarettes, anche se io non l'avevo riconosciuto, non me lo ricordo, non ho capito che ruolo fa, di Jim Jarmusch, che è un altro bellissimo film, poi c'ha una serie di cose fatte palesemente per pagare il mutuo, recita anche in Californication ed è regista di un film che io ho provato a vedere ma mi ha fatto un po' schifo, che è L'uomo con i pugni di ferro, che probabilmente era anche il suo tributo a quel cinema d'altri tempi, che però forse era meglio lasciarlo agli altri tempi, non lo so, magari, forse, non lo so. E ora invece per creare una specie di filo tra questo tipo di tradizione dell'hip hop e quello che arriva poi in Italia, che in parte viene ispira e viene ripreso comunque molto più che degnamente, volevo farvi ascoltare L'anno del drago di Chaos One. In particolare Chaos One fa spesso riferimento a arti marziali, queste cose qui, anche in una maniera particolarmente zalla che a me piace tanto. In particolare c'è un pezzo che non vi facciamo ascoltare, vi facciamo sentire un altro, però c'è un pezzo, La via del vuoto, che è palesemente ispirato a il fumetto Lone Wolf e la relativa serie TV, che hanno segnato in maniera imperitura e indelebile la mia infanzia. Non so se ve lo ricorderete, ma è la storia di questo samurai che si porta in giro il passeggino con il bambino dentro, camminando lungo il Fumando, che sarebbe questa specie di inferno dei samurai senza padroni, ma più che altro della vita intesa come via del vuoto, cioè vado a svuotarmi, non ho più un senso, e pian pianino mi svuoto, ma in questo svuotarmi ritrovo anche il senso dell'essere qui e ora. È un vivere nell'istante, però in maniera un pochino melodrammatica. E quindi niente, ora vi lasciamo all'ascolto di Chaos One, L'anno del drago, che non è il pezzo di cui vi ho parlato. Se volete sentire il pezzo di cui vi ho parlato e non lo conoscete, sembra sempre strano, per l'estrema selezione selezione del pubblico, però potete sentirvelo, si chiama la via del vuoto. Invece questo è L'anno del drago, che è molto più zallo della via del vuoto. Preparati, Caos! Nascosto fra le pieghe del tempo, l'ultimo evento, oltre il punto di non ritorno, intorno all'ultimo giorno, questo è il mio turno. Caos, colpo pieno nella follia, via pratiche magiche tra l'alchimia e la santeria. Molto più mistico, anche di un congresso caristico, ignoro l'oroscopo, poiché ne sovverti il pronostico. Apro lo scrigno del mago, controllo il contenuto, ne pago il castigo subito, nel segno del drago. Il combattesimo, l'ennesimo secolo in cui fottere il prossimo, altrui per molti di noi è considerato il massimo. Scritto senza inchiostro, lo specchio dall'alabastro predice il disastro. Sei nel castello di Cagliostro, Armageddon. L'ultima guerra quando la terra trema, l'ultima scena omicida, l'ultima cena con Giuda. La strada per là di là, Shangri-La, percorrila nel tempo e nello spazio, prima dell'ultimo giudizio. L'intensità di ogni tuo singolo senso, oltre le nubi d'incenso, sei nell'attesa di un responso, di un segno. La luce nel buio, oggi ogni giorno l'odio è più forte, l'anno del se ti odia in un computer, perché qua c'è più sangue che in un racconto di Bram Stoker. Qualcuno si impegna, qualcuno si ingegna, qualcuno si rassegna, qualcuno ha già gettato la spugna. Ora il segno del mago a risplendere tra le persone, la realtà non può trascendere la mia allucinazione. Ho la guida dimensione, l'ignoto acquista forma e il moto perpetuo si ferma, la via del vuoto nel karma conferma che ciò che era scritto in principio ora è più chiaro, più bello. Trappe realtà nel microscopio tra me negli ultimi istanti rimasti ne percepisco i segni. L'anno del drago c'è nei nuovi sogni, ogni guerriero che lo sa dovrà stracciare il massimo, oltre l'ultimo limite già proiettato verso il prossimo tempo scaduto. C'è l'ultimo minuto che impiego, non lo rinnego. L'anno del drago, ogni guerriero che lo sa dovrà stracciare il massimo, oltre l'ultimo limite già proiettato verso il prossimo tempo scaduto. C'è l'ultimo minuto che impiego, non lo rinnego. L'anno del drago, d'azzardo con la sorte, convinto di aver vinto. Da quando mi spinto, mi spinto a violare il firmamento, ho accettato la sconfitta, ho portato la lancetta in avanti. Troppi rimpianti, troppi conti, troppi combattimenti, proibiti. Procedo per inerzia tra sguardi stupiti attraverso spazi infiniti. M'ho perso l'orientamento e il tessuto narrativo, adesso è fuori controllo, pezzi in posizione di stallo. Talento insufficiente a procedere per via diretta, lascio che il segno del drago mi mostri la strada esatta. Ed esco per la mente, luce fosforescente, dove il buio è costante. Non vedo alternative possibili, rinchiuso tra mura invisibili. Indovina chi li ha ammazzati quei miracoli. Reclamo ciò che è mio per diritto acquisito. La via del vuoto, l'ignoto, la strada del moto perpetuo. L'infinito è a portata di mano, il contatto divino. Il dono del perdono adesso è sempre più vicino. Maestro Chaos, stai bene? Sei ferito? Era da molto tempo che non mi sentivo così pronto a combattere contro il nemico. E ogni guerriero che lo sa dovrà stracciare il massimo, oltre l'ultimo limite già proiettato verso il prossimo tempo scaduto. C'è l'ultimo minuto che impiego, non lo rinnego. L'anno del drago, ogni guerriero che lo sa dovrà stracciare il massimo, oltre l'ultimo limite già proiettato verso il prossimo tempo scaduto. C'è l'ultimo minuto che impiego, non lo rinnego. L'anno del drago. E con questa deflagrazione abbiamo deciso che si chiude qui la puntata. Basta, non diremo più niente. No, non è vero. Almeno vi salutiamo. Però per questa domenica direi che abbiamo dato, a meno che Gino non decida che ora fa un'altra puntata lei da sola, visto che si era ripresa prontamente dalla sua un attimo di staticità e si è trasformata in un oggetto molto più vivo del pupazzetto di Doraemon che ho qua davanti e che invece prima all'inizio della puntata erano più simili. Ora invece lei è super sciolta. Vuoi andare avanti? Tantissimo. No, mi scuso per la sciatteria. Beh, è evidente che non potendo non potendo fare attività fisica, il mio cervello ne ha risentito e sono molto più... Perché la dipendenza è dura, Gine. Ma dobbiamo uscirne da questa cosa. Cioè, siamo qui per questo, forza. E quindi niente, aiutateci, stateci vicini perché teniamo bisogno. E ora vi rilasciamo alla bobina. Da 3000 siepi questo è tutto, anche Radio Wombat vi saluta, buona serata.